Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, alle 8:19 primi e 45 secondi. Oscar Giannino qui dagli studi di Milano. Attenti a noi due, vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretto in podcast. Anche oggi, e questo immagino che ormai lo sappiate, l'abbiate capito, senza il grandissimo Alessandro Milan, al quale è arrivata, sta arrivando, arriverà l'ondata del vostro caloroso sostegno affettuoso con le migliaia di messaggi che gli avete mandato e per i quali vi ringrazio, pur non avendone titolo, perché tutti ci siamo stretti intorno ad Alessandro per la scomparsa di Francesca Del Rosso. Io ringrazio anche i colleghi del Corriere della Sera e della Verità di Belpietro, giornale col quale collabora Alessandro Milan, pubblica delle interviste sulla Verità, perché questi due quotidiani oggi dedicano due pagine sia al Corriere della Sera che la Verità a Francesca Del Rosso e rendono merito alla battaglia pubblica che Francesca, giornalista, autrice di testi, autrice di libri, autrice radiofonica, ha condotto apertamente contro la malattia che poi l'ha sconfitta, ma non ha piegato la sua voglia di vivere, il suo ottimismo, la sua fiducia, la sua grande lezione di mamma. E io devo dire che la forza che Francesca ha emanato in questi anni intorno a sé vive appunto in questi riconoscimenti pubblici. Io penso che gli dobbiamo essere grati per quello che ha fatto, dimostrando che alla malattia ci si arrende solo dopo la sconfitta. Prima si può, si deve vivere con dignità, con forza, con passione, con amore. E viva Francesca, i suoi due figli e Alessandro Milan. Allora, oggi 13 di dicembre 2016, una grande santa, una delle più note nella tradizione cristiana, Santa Lucia. Pensate che Santa Lucia ne ha attestato il culto nel catacombe di Siracusa, dove è stata martirizzata fin praticamente dagli primissimi anni successivi al suo martirio, che avviene sotto Diocleziano, perché fu trovata un'epigrafe dedicata a lei, al suo culto, proprio già nel IV secolo. Quindi è una santa patrona di chi non vede, dei ciechi, quindi anche di Oscar Giannino, che vede, ha una vista un po' debole da quando era bambina. Oltre a chi si chiama Lucia, auguri a tutti coloro che si chiamano Aristone, Arsieno, non ne conosco nemmeno uno, e Odilia. Invece di Odilia me ne è capitato di conoscerne una parecchi anni fa. Tra le cose capitate nella storia da ricordare oggi di una certa importanza, la Controriforma, perché si aprì il Concilio di Trento nel 1545, proprio oggi. Una chicca, nel 1978, pensate che l'Italia entrò nel sistema monetario europeo, l'anticamera poi delle fasi successive che ci hanno condotto all'euro. Lo sistema monetario europeo era un accordo di cambio a fasce flessibili che diventavano via via nel tempo sempre più rigide, sfociate poi nella moneta unica europea, ma il PCI era contrario. E pensate che a sostenere la contrarietà in aula alla Camera chi era? Era Giorgio Napolitano. Nella storia si cambia, per così dire. E quel voto nel 1978 avvenne in realtà con una minoranza, nel senso che alla Camera i favorevoli furono 270, ma se sommate i contrari 228 e gli astenuti, che furono 53, vedete che la maggioranza era fatta di contrari e astenuti. Quindi è grazie agli astenuti che si è entrati nello SME. Oggi non so quella votazione sull'euro come andrebbe, dirvi la verità. Nel 2009, oggi, il 13 dicembre, Berlusconi a Piazza Duomo veniva colpito da una statuetta sulla testa, ve lo ricorderete, da parte di un 42enne che aveva qualche disturbo mentale. Ma andiamo ai giornali di oggi. I giornali di oggi a me hanno colpito, naturalmente, la vicenda è quella del governo, le conferme tranne poche variazioni e poche novità, come Alfano agli esteri, avete sentito, Minniti che esordisce ministro dell'interno con una rasoiata di D'Alema sulla faccia dicendo vabbè con questa sola nomina abbiamo perso il 5%, Minniti ex d'Alemiano, De Vincenti da sottosegretario alla presidenza del Consiglio diventa ministro della coesione territoriale, l'unica titolare di grandi riforme bocciata esplicitamente è la Giannini al MIUR che viene sostituita da una sindacalista che di scuola non sa nulla, Valeria Fedeli, per anni alla guida dei tessili della CGIL che insieme ai chimici sono la categoria più riformista, ma il messaggio è chiaro, della buona scuola Renzi aveva già detto da mesi che considerava la riforma che più rimpiangeva per come era stata fatta. Oggi, per chi volesse, ho dedicato una lunga interpretazione del motivo per cui la Giannini è l'unica a pagare e ricostruisco i motivi per cui per il PD è stato un boomerang pensare che il grande consenso venisse dalla messa in regola di centinaia di migliaia di precari. Non è stato così, la politica per decenni ha vergognosamente praticato il precariato di massa nella scuola italiana e con quello sì che si fa i consensi se prometti alle elezioni poi dopo di far seguire le regolarizzazioni. Quando ne assumi 140.000, 130.000, sono stati un po' meno in un solo colpo e l'idea era di farne ancora di più 250.000, è ovvio che lo squilibrio territoriale tra i molti del sud che per anni hanno ricoperto incarichi a tempo nelle loro province e la messa in ruolo, assunzione di cattedra, soprattutto nel nord dove è inferiore la domanda, crea enormi problemi e fa esplodere la protesta. Questo è stato uno dei motivi di fondo su cui la protesta è esplosa, come quello dei poteri al dirigente scolastico voluto da Renzi. Comunque, tutto sommato, il motivo per cui la Giannini è l'unica che paga è questo. Per il resto, la domanda che io vi faccio, cari ascoltatori, telefonateci, è se per voi prevale la continuità e la voluta Renzi oppure no. Perché una delle tesi che girano è quella secondo la quale poi alla fine non è che Renzi volesse davvero il governo fotocopia. Nelle ricostruzioni giornalistiche dei giorni alle nostre spalle alcuni scrivevano di sue indicazioni favorevoli per esempio ad alcuni tecnici, si parlava di Nannicini al posto di Poletti. Nannicini sottosegretario, autore dell'intervento sulle pensioni in questa legge di bilancio, si parlava di una sua promozione come tecnico al Ministero del Lavoro al posto di Poletti, invece Poletti viene confermato. Si parlava agli esteri non di Alfano ma della segretaria generale della Farnesina, un'altra tecnica, e si diceva che queste erano le indicazioni di Renzi, con un Renzi quindi più proteso a smarcarsi da un governo meno continuo rispetto alla totale fotocopia del suo governo uscente. La sua indicazione era chiara: voglio la Boschi, voglio Lotti. La Boschi, come sapete, resta sottosegretaria alla presidenza del Consiglio. Su Lotti, secondo me, Mattarella e Gentiloni hanno avuto una trovata di sublime ironia, perché resta a Palazzo Chigi, ma lo sberlefo è che ci resta come ministro dello sport, sia pur confermando la sua delega all'editoria, ma col cavolo quella ai servizi segreti, a quanto pare. Ma l'altra tesi è che appunto il governo fotocopia sia più un atto, per così dire, di intelligenza politica da parte del Quirinale di Gentiloni per mettere in difficoltà Renzi, per rendergli più difficile prendere le distanze da questo governo. Renzi resta molto esposto con un governo fotocopia di questo tipo da una parte, e dall'altra, se il governo dovesse andare avanti, sarà più complicato per lui prendere le distanze da un governo così caratterizzato dalla continuità. Quindi io vi chiedo di telefonarci, farci sapere all'80024 se voi lo considerate un governo di totale continuità renziana oppure se immaginate che proprio la sua composizione continui a esporre molto il premier. Io richiamo due commenti che mi hanno molto colpito dei tantissimi oggi che ci sono, che sono due commenti molto duri, perché sia il Corriere della Sera che Repubblica in realtà danno dei giudizi pesanti come pietre. Sul Corriere della Sera in particolare trovate 10 ragioni vergate da Paolo Mieli per le quali Matteo Renzi farà molto bene a pensarci bene prima di abbassare la testa e ributtarsi nella corsa delle primarie e della riconferma in primis della segreteria del suo partito e poi della presidenza del Consiglio passando per le elezioni. Sono 10 spunti di riflessioni pesanti come pietre. Ma anche il giudizio di Mario Calabrese, il direttore di Repubblica, è durissimo, leggo testualmente: quelle del nuovo governo sono scelte evitabili che rafforzano diffidenze, gonfiano il qualunquismo e lasciano un retrogusto di furbizia e immaturità. Quindi fortissima delusione da questo punto di vista. E una flash anche su alcune vicende economiche. È chiaro che più delle cronache vanno alla politica, alla formazione del nuovo governo. succedono cose di un certo peso. Non è forse un caso che, approfittando della debolezza politica di questo momento, il finanziere bretone Bolloré, la testa di Vivendi, ieri ha lanciato una nota dicendo: noi stiamo comprando sul mercato azioni Mediaset e andiamo a diventare il primo socio industriale, oltre a chi lo controlla, quindi il secondo, andiamo al 20% di Mediaset. Come sapete, Vivendi è l'azionista di riferimento di Telecom Italia, ha una contesa aperta su Premier, sulla canale TV a pagamento che doveva rilevare di Mediaset, e c'è un contenzioso aperto perché si è rifiutata poi di ottemperare al contratto per rilevarlo, e da questo punto di vista è ovvio che Bolloré sta finalmente rivelando di pensare davvero a un ponte tra i contenuti di Mediaset e la telco, l'impresa di telecomunicazione Telecom Italia. È un problema che il governo strutturerà per le mani, ma è un problema che riguarda gli asset più importanti dell'economia italiana. Nel frattempo Pioneer, la più grande piattaforma di risparmio gestito italiano, è stata ceduta da Unicredit ancora una volta ai francesi per 3,9 miliardi di Pioneer. E quindi attenzione, perché l'Italia continua in realtà inesorabilmente a perdere pezzi. La forza del suo capitalismo è una forza in realtà che sfiora nell'asfissia. Se poi pensate a quello che succede a MPS, vedremo nei prossimi giorni. Ecco tre vicende che da sole descrivono il contesto in cui la politica si muove, e dovrebbe pensare forse un po' più a questo che alle sue beghe, però questa è naturalmente la mia opinione. Ieri, direzione del PD, e cominciamo subito da questo, perché la direzione è stata, per così dire, dopo quella obbligata delle comunicazioni per la fiducia del governo Renzi, però un primo assaggio della durezza del confronto interno che dovrebbe partire. Abbiamo con noi Davide Zoggia, il deputato del PD ed esponente della minoranza bersaniana. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, io parto da un giudizio che viene oggi riportato sui quotidiani, sul Messaggero in particolare, che titola a tutta pagina con una dichiarazione di Pierluigi Bersani: sia la fiducia, ma poi ci convincano. Ecco, ieri l'intervento in direzione di Speranza è stato molto duro, dicendo: fateci capire, cari segretario e sostenitori, se c'è spazio per una minoranza, oppure pensate di ripartire da primarie, quindi congresso e campagna elettorale, senza una vera analisi delle amministrative e del referendum. È un attacco durissimo che indebolisce il partito, dicono loro i renziani. Voi come rispondete? Ma rispondiamo molto semplicemente che sia le elezioni amministrative di giugno che in modo particolare il referendum del 4 di dicembre ha dato un segnale molto chiaro e molto netto, nel senso che gli elettori italiani, anche parte consistente della sinistra, del centro-sinistra, ha dato un giudizio certamente negativo per quanto riguarda la riforma costituzionale, ma una percentuale così alta di votanti, una percentuale così alta di voti al no, molto probabilmente dà un giudizio anche su questi 1000 giorni. E allora, dal punto di vista del governo, avete già detto, se anziché provare a correggere in questi mesi che abbiamo davanti alcune politiche, penso alla scuola, al lavoro, al mezzogiorno, precarietà e cose di questo tipo, si fa invece un governo dove pare prevalere un po' l'equilibrismo interno al Partito Democratico per ragioni congressuali, vuol dire che molto probabilmente il messaggio non è stato colto. E in più, se il congresso si deve trasformare in una corsa a ostacoli immediata per la rivincita di qualcuno e non invece una seria analisi su come recuperare elettorato, dove posizionare il PD dal punto di vista delle politiche, dal punto di vista delle alleanze, eccetera, molto probabilmente non viene proprio colto, diciamo, lo spirito che è sorto dal 4 di dicembre. Quindi questa è una preoccupazione, credo che non interessi solo la minoranza del partito, ma sia una preoccupazione che interessi tantissimi elettori che sarebbero disponibili a stare all'interno di questo partito, militare, votarlo, e che invece non guardano più a noi come un punto di riferimento della sinistra. Senta, due osservazioni sulla composizione del governo, per chiedere se queste interpretazioni che alcuni avanzano sui quotidiani di oggi sono fondate, perché si riferiscono a voi, cioè alla minoranza Dem, oppure no. Per esempio, il Messaggero fa notare che con la porta voluta da Gentiloni come chiusa, irrimediabilmente chiusa, la nascita del governo in faccia a Verdini e all'ala, che non fanno parte della maggioranza e quindi non dovrebbero sostenere assolutamente il governo perché volevano un riconoscimento nella compagine che Gentiloni ha voluto programmaticamente evitare. E quindi il Messaggero scrive per esempio oggi: poiché con la porta chiusa in faccia a Verdini e ad ala il governo in Senato può contare su 166 voti sicuri, cioè appena appena sopra il margine, senza i 18 di Verdini, però diventano assolutamente decisivi i vostri 24 senatori, quelli ascritti alla minoranza Dem. E quindi Gentiloni nascerebbe con questo deliberato messaggio rivolto a voi: guardate che vi considero molto più decisivi, mentre il governo precedente trafficava appunto con Verdini incessantemente per espandere la maggioranza e rendervi non decisivi. In più, secondo elemento, molti scrivono che in realtà le variazioni più significative, oltre a quella di Minniti, nella composizione del governo, e cioè appunto Valeria Fedeli al MIUR e la Finocchiaro, sono due altri segnali precisamente rivolti verso di voi. È così secondo lei oppure no? Ma non lo so, no. Per quanto mi riguarda, no. Nel senso che noi abbiamo detto ieri, una nota che abbiamo diffuso e anche nell'intervento di Roberto Speranza in direzione, che il governo lo sosteniamo e lo votiamo per responsabilità nei confronti del Paese e del Presidente della Repubblica. Poi sui singoli provvedimenti ovviamente ci riserviamo di valutare, in modo particolare per quanto riguarda i provvedimenti a noi più cari, penso appunto ai temi del lavoro, ai temi del disagio e scuola, se ci saranno provvedimenti di questo tipo, perché poi bisogna anche vedere. Io non credo che ala, nonostante non ci sia la presenza con ministri, ma probabilmente avrà delle rappresentanze con i sottosegretari, vedremo, come dire, sia disponibile a far cadere il governo. Mi sembra più, non conosco ovviamente retroscena, ma una mossa, diciamo, in qualche maniera studiata per non schiacciare troppo il governo verso quella formazione politica. Però sappiamo benissimo che tanti ambienti vicini al renzismo ormai hanno un rapporto organico con quel tipo, diciamo, di formazione politica, o comunque non voglio neanche dire formazione politica, diciamo personalità che fanno parte di quella, di quel gruppo parlamentare. Per quanto riguarda la Finocchiaro e la Fedeli, vale il discorso di cui sopra. Vedremo che tipo di provvedimenti verranno presentati al Parlamento. Sulla scuola credo sia molto difficile rimontare, perché i disastri fatti in questi anni sono veramente molto molto profondi. Io insomma sono contento di non aver votato la cosiddetta buona scuola. Vedo che adesso ci sono arrivati un po' tutti a dare un giudizio estremamente negativo. Non si capisce perché bisogna fare una riforma punitiva su un mondo dove il Partito Democratico aveva una fortissima presa. Si poteva pensare a una riforma che non andasse sostanzialmente a destabilizzare completamente questo mondo e in qualche maniera ci consentisse comunque di portare avanti il tema delle assunzioni legate alla precarietà e cose di questo tipo. Si è voluto, come dire, marchiare con il fuoco una cosa che poi ha liberato tutte le inadeguatezze. Penso un po' allo stesso per quanto riguarda la pubblica amministrazione, nonostante sia rimasto il ministro Di Pris. Per quanto riguarda la riforma elettorale, quindi il lavoro che dovrà fare la Finocchiaro, penso che quello sarà un lavoro molto più parlamentare, e quindi francamente il ruolo del ministro, sì, con tutto rispetto ovviamente. Senta, uno dei punti di cui tutti i notisti che si occupano di descrivere i contrasti interni, insomma i problemi maggiori che ci sono per incominciare l'iter verso il congresso del PD, è quello di una presunta volontà scritta a Matteo Renzi di cambiare domenica, quando si riunisce l'assemblea del partito competente per lo statuto, alcune norme statutarie per convocare il congresso, dicendo: ma saltiamola questa fase nei circoli, andiamo il più presto possibile alle primarie, vediamo chi mi si candida contro, io faccio le primarie e a quel punto poniamo le basi per avere un leader riconosciuto di nuovo dalla base del partito per poi andare alle elezioni. Come la vedete questa ipotesi? Se fosse fondata e ci fosse davvero la richiesta di abolire il passaggio nei circoli per andare alle primarie subito, giusto o sbagliato? Ma sarebbe un congresso dei tifosi, cioè un congresso dove appunto Renzi cerca una rivincita immediata rispetto a migliaia, centinaia di migliaia di elettori italiani, e non si tiene conto dell'appunto, come dicevo prima, del profondo messaggio che è giunto. Io penso che questo sia il momento giusto, anche un po' tardivo, perché già con le elezioni amministrative bisognava aprire un dibattito molto più serio all'interno del nostro partito, anziché derubricare la cosa a una questione locale. Perché quando perdi 19 ballottaggi su 20, perdi Roma, perdi Torino in quella maniera, forse c'era bisogno, come dire, di un'analisi un po' più approfondita. Ora, dopo il 4 dicembre, è evidente che l'analisi deve essere non solo approfondita, ma deve essere rigorosa e severa, e soprattutto deve coinvolgere quelli che nei territori, quelle persone che sono poi la fonte vera del consenso del Partito Democratico. Quindi mi pare di capire che siete abbastanza contrari a questo. Se Renzi intende fare un'ulteriore forzatura, che per carità è possibile, dati i numeri del congresso del 2014, significa che si è deciso in qualche maniera di uccidere dal punto di vista politico il Partito Democratico. Quindi usa anche lei un'espressione. Si fa un'altra cosa, si fa a quel punto il partito dei tifosi di Renzi e ci mancherebbe. Con tutte le conseguenze di chi propone questa cosa. Perfetto, molto chiaro. Io ringrazio Davide Zoggia. Andiamo adesso alla pubblicità. 24 mattino, attenti a noi due. Ed eccoci qui, tornati in diretta alle 8.44 primi 29 secondi. Qualcuno di voi dice: ma insomma, anche attenti a noi due, Giannino da solo si piega alla retorica di una delle minoranze più raccontate, più inefficaci dei partiti politici del mondo, quella del PD. No, scusate, guardate, non le faccio io le articolazioni interne dei partiti. Uno, due, sono ancora più decisivi al Senato, Gentiloni così ha voluto. Tre, avete sentito che Zoggia della minoranza dice: voteremo il provvedimento in provvedimento, pesando bene i provvedimenti, cioè non è che una fiducia a prescindere nei confronti di questo governo, quindi sono decisivi. E sul livello interno del confronto e sugli argomenti delle obiezioni a Renzi non mi pronuncio, perché non appartiene a me. Alcuni di voi per esempio dicono: ah, sembra di Rifondazione. Ripeto, anche su questo, lungi da me condividere le ragioni e i motivi, il mio mestiere però è quello di dovermi rivolgere a chi oggi fa critiche, perché c'è chi ha perso. Renzi, come è ovvio, pensa che dare troppo spazio all'autoflagellazione sia un errore in vista delle elezioni e delle primarie, del cammino che vuole percorrere. Però io noto che sui giornali italiani oggi c'è una durezza di giudizio che da 1000 giorni mancava del tutto. Vi segnalo un altro articolo, sempre nelle pagine editoriali di Repubblica, la firma Stefano Cappellini. Vi garantisco che su come critica interna al PD e a Renzi è di una violenza che su Repubblica non ricordo di aver letto da anni, a dire la verità. Ecco, per dirvi che quindi non si tratta di piegare il ginocchio alle minoranze, di abbracciare i suoi argomenti, si tratta semplicemente di tentare di descrivere una situazione che resta molto delicata. Peraltro alcuni quotidiani, ancora una volta Repubblica, intervista, sente il governatore della Puglia, l'idea di Emiliano, sto pensando di sfidare Matteo, scontro sulle regole. C'è chi, mi diverto a rilevarlo, in questo caso La Verità di Belpietro, con un pezzo di Claudio Antonelli, chi ricorda che negli anni alle nostre spalle, nel 2012 e dal 2012, Paolo Gentiloni, il nuovo presidente del Consiglio, è tifoso della patrimoniale. Ricordatevelo bene, speriamo di non doverlo vedere in azione per la patrimoniale, ma lui è sempre stato favorevole dal governo Monti in poi. Sentiamo rapidissimamente alcuni di voi. Sentiamo Giorgio da Pisa, che pensa di questo governo. Fotocopia voluta da Renzi o subita da Renzi, che continua a esporlo, secondo te, Giorgio? Buongiorno Giannino. Senta, volevo dire due cose velocissime. Allora, il PD deve rimettere la sua S di sinistra nel suo logo. e poi se vuol vincere le prossime elezioni politiche, altrimenti cadranno nel baratro. E loro si devono comportare veramente da sinistra, non da Ducetti come Renzi e tutta la sua corte. Giorgio, naturalmente passa per il fatto che bisogna fare un congresso, bisogna vedere come decideranno di farlo, in cui alla fine chi ha i numeri vince e decide la linea del leader. Quindi questo è un po' il punto. Renzi l'ha messo sempre così. Sì, ma io sono d'accordo, però se diciamo i ben pensanti del PD, quelli veramente di sinistra, si coalizzano, Renzi deve andare a casa davvero, perché è lui che ha distrutto il PD e tutta la sinistra, secondo il mio punto di vista. Opinione netta di Giorgio, perfetto. Stefano da Forlì. Stefano, come la pensa? Buongiorno, se ho visto bene nel dettaglio delle deleghe di questo nuovo governo, sì. Lotti allo sport e acquisisce la delega per l'editoria, che è una materia stranamente comunque di diretta competenza della Presidenza del Consiglio. Eh già. La domanda maliziosa è, non è che attraverso Lotti Renzi vuole comunque continuare ad avere questo rapporto predominante e privilegiato con il mondo dell'informazione? Ma che scusi, è la seconda domanda retorica, come ovvio. Certo che questa sì. Questa è la risposta che volevo. La seconda domanda retorica, è chiaro che se cosa pensa che voglia essere, se non quello. Del resto la richiesta era quello di occuparsi delle nomine e dei servizi, e quindi come stiamo parlando di politica con la P maiuscola. Io trovo sublime che per farlo rimanere a Palazzo Chigi comunque il capo dello Stato gli abbia dato la delega allo sport, perché sono le grandezze ironiche di chi ha un passato consolidato, voglio dire, nella Prima Repubblica. Detto questo, secondo me lei coglie il punto, secondo me non sbaglia, non è cattivo. Del resto Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla Presidenza, mettetela come volete, io non ho mai dato giudizi personali e così via, però comunque è un segno. Erano due le richieste di Renzi. Ripeto, io penso invece che Renzi preferisse un governo non fotocopia, perché questo governo continua a esporlo troppo, ma questa è la mia opinione. A proposito di Gentiloni, ora abbiamo un ospite ed è nella speranza che Gentiloni dia retta a questo ospite per le sue passate responsabilità agli esteri e per quella che assume con la Presidenza del Consiglio dopo il passaggio parlamentare, perché abbiamo con noi la vedova di un italiano ucciso in Libia, e che non solo è ucciso in Libia e quindi, come nel caso di tanti altri, si è trattato, ma non si è mai apparato ufficialmente se ci fosse stata la trattativa per pagare un riscatto da parte italiana, il riscatto fosse stato pagato. Sapete che l'Italia ha questa linea molto opaca, che io ho sempre molto criticato, di fare una cosa e dirne un'altra quando si tratta di vite di propri cittadini presi in ostaggio dal terrorismo internazionale. Questo italiano è morto, e non solo è morto ed è tornato in una bara in Italia, ma per di più adesso succede quello che sentite. Ecco. L'italiano ucciso in Libia nel febbraio scorso è Salvatore Failla, un tecnico italiano che era lì per lavoro, ovviamente per un'impresa Labonatti, e è con noi la vedova Rosalba Castro. Grazie di essere con noi, signora Rosalba. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. No, si figuri, noi l'abbiamo invitata perché abbiamo letto che oltre a quello che è successo a suo marito e oltre a non sapere ancora ufficialmente cosa diavolo è successo davvero, nella realtà lei ha fatto una domanda, perché le spetterebbe di pieno diritto un riconoscimento da parte dello Stato, e lo Stato glielo nega, è così? Quello che ho richiesto non è un riconoscimento che lo Stato mi deve dare, è la pensione di reversibilità. Esatto. Quella sono gli anni di lavoro di Salvo. Sì. E questa... da maggio ancora si sta prolungando fino ad oggi. È stata anche rigettata, avete sentito? È stata rigettata, ma come hanno fatto a rigettare la richiesta? Perché mancavano delle documentazioni. Mancavano questa documentazione. Sì, questa certificazione che dichiarava la morte di Salvo per causa di terrorismo. Ma la mia pensione è stata presentata come una pensione normale. Sì, ma la cosa incredibile, ma adesso io chiedo a lei, ovviamente, che sarà munita del parere di chi l'assiste in questa vicenda, dei professionisti, ma è ipotizzabile che l'INPS di Lentini, a cui si è rivolto lei, eccetera, davvero abbia bisogno di pezzi di carta per sapere che suo marito è rimasto ucciso per quella vicenda in Libia? Oppure c'è qualcos'altro che bisogna ipotizzare? Guardi, io le dico una cosa. Noi abbiamo presentato questa domandina di reversibilità. L'INPS si doveva effettuare il pagamento, però mi richiede questa certificazione che non è necessaria. Quindi io non ci sto capendo niente, guardi. Ma qualcuno dall'istituzione si è fatto vivo con no, lei? Nessuno, no, nessuno. Nessuno. Nessuno. Quindi non il governo attraverso il prefetto, non, nessuna articolazione dello Stato ha sentito, nessuno. Ma neanche adesso che l'ha detto in pubblico, non solo da noi, sui giornali e così via, in questi ultimi giorni, nessuno. Nessuno. È vergognoso, ma è la verità. Da quanto Salvo è rientrato in Italia dentro una bara, niente. Nessuno ha preso il telefono e chiamare... Per chiamare. Allora, e chiamare. Visto che abbiamo un nuovo ministro degli interni, Minniti, che ha seguito vicende dei servizi e del terrorismo internazionale per anni, caro ministro, mettiti una mano sulla coscienza. La signora Rosalba Castro, vedova di un italiano ucciso in Libia da bande, non può rimanere senza una risposta dello Stato. Lo stesso dico a Paolo Gentiloni, ex ministro degli esteri, oggi presidente del Consiglio. Insomma, non è possibile avere italiani che muoiono all'estero e trattare la loro memoria e i loro cari in questo modo. Questo è quello che possiamo fare come informazione. Io trovo che la dignità, la forza di Rosalba Castro nel non mettersi a urlare sia straordinaria. Però, per favore, signori del governo, fatevi vivi con Rosalba Castro, fatelo per questo straccio di dignità e di bandiera che è l'Italia, se non volete farlo per lei che purtroppo piange suo marito ucciso in Libia. Continuate su Radio 24, appuntamento con me alle 4:30, la versione di Oscar.